Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Può fare. Voci da un mondo possibile. Di Laura Bettini. Buongiorno a tutti voi, finalmente ci siamo, finalmente siamo in onda in questo giorno di San Francesco, San Francesco che è il patrono d'Italia, no? Sapete, quindi abbiamo deciso di dedicare la puntata di oggi proprio al nostro paese. Si può fare l'Italia, ci siamo chiesti. Da quel 1861 gli italiani sono stati fatti? C'è una cultura, uno spirito nazionale, una lingua per gli italiani? O al contrario, non c'è un'Italia ma 10, 100, 1000 Italia, un paese atipico rispetto ai monoliti che ci circondano, ma pur sempre uno. Un paese che ha, come ben sappiamo, 1000 campanili, 1 milione di allenatori di calcio, della nazionale si intende, un paese di anarchici, di criticoni, di disincantati. Un paese che sta vivendo un tempo difficile come tanti altri per colpa della pandemia, ma sta vivendo anche ore difficili, e questo solo è nostro purtroppo, al nord-ovest, no? Quindi al Piemonte, alla Valle d'Aosta, alla Bassa Lombardia, il Piacentino. Ecco, attiviamo in queste ore anche noi qui a Radio 24 le reti di solidarietà di cui disponiamo. Noi abbiamo numeri di telefono 800 24 00 24, per le telefonate 349 238 6666. Siamo anche disponibili ad ascoltare appunto le vostre storie, i vostri bisogni, le situazioni di allarme, particolari necessità. E nel frattempo diamo il benvenuto a una persona e a un corpo intero che di solidarietà ha fatto uno scopo di vita. L'Associazione Nazionale Alpini, la conosciamo, interviene sempre nei momenti difficili del nostro paese, sempre attiva a prestare soccorso laddove serve. L'esercito è stato in passato anche un fattore unificante per questo paese, quindi abbiamo pensato a loro per rappresentare le due cose, l'esercito e la solidarietà. Sebastiano Favero è il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, è in collegamento con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. È stato, no, l'esercito e anche voi un fattore di unità di questo paese, poi voi l'avete portato oltre, no, il servizio di leva, e l'avete portato poi appunto laddove serve, dove c'è bisogno di prestare soccorso. L'abbiamo portato nel paese perché proprio quando abbiamo fatto il nostro servizio e l'abbiamo fatto in montagna abbiamo capito che il fare cordata, il stare assieme è un elemento fondamentale per raggiungere gli scopi. Allora poi questo spirito di aggregazione l'abbiamo portato fuori, l'abbiamo portato nell'associazione, e con l'associazione quando c'è stato bisogno siamo intervenuti. Voglio solo ricordare per il passato il Vajont piuttosto che il terremoto del Friuli, ma recentemente anche il terremoto in centro Italia, e anche proprio in queste ore purtroppo nel nord-ovest del nostro territorio. Quindi siete già attivi anche lì? Siamo già attivi anche lì, sì, da ieri sera. Senta, quindi lei dice è un po' stato la montagna e la fatica che si fa nelle montagne a farvi capire la necessità, insomma, di poi dopo uscire dalle caserme, diciamo. Certo, certo, questo la montagna è qualcosa che sembra dividere, perché la montagna ovviamente è un ostacolo, invece per chi la sa affrontare con lo giusto spirito è qualcosa che unisce, che ti tiene legato per sempre, perché capisci che affrontandola nel modo giusto devi certamente sacrificare, quindi avere quel senso del sacrificio, ma nello stesso tempo ti trovi insieme ad altri, non tanto a combattere in senso fisico, ma a combattere proprio anche psicologicamente per riuscire a raggiungere un obiettivo, una meta, e capisci allora che quello che vuoi raggiungere lo devi sempre fare con quella disponibilità e anche con quel senso del dovere che poi ci è rimasto dentro. Beh, noi colleghiamo sempre gli alpini alle Alpi e quindi al nord Italia. In realtà gli alpini sono di tutta Italia, no? Tra l'altro il nostro paese è tutto montuoso, quindi non è che... Sì, l'Italia infatti ha montagne dalla Sicilia fino alle Alpi, quindi se ha qualche piccola pianura ce l'ha nel nord, non certamente nel sud. E voglio ricordare, noi abbiamo in Italia 80 sezioni, copriamo tutto il territorio nazionale, abbiamo 4.200 gruppi in Italia e altre 20 sezioni più altri 200 erotti gruppi sparsi nel resto del mondo, quindi siamo un po' presenti su tutto il territorio nazionale. Cosa fanno le sezioni nel resto del mondo? Cioè sono ex che sono, si sono trasferiti all'estero e lì hanno ricostruito la rete? Sono quelli che noi abbiamo amiamo chiamare della seconda naia, quelli che finito di fare il loro dovere in patria hanno dovuto prendere lo zaino ancora e per trovare la possibilità lavorare si sono spostati all'estero, ma sono rimasti attaccati ai nostri valori, al valore e al riferimento dell'Italia, ma soprattutto ai valori degli alpini, e quindi in tutte le realtà in cui poi si sono ritrovati hanno ricostituito gruppi e sezioni che sono ancora vivi e che spesso io vado anche a visitare perché veramente meritano l'attenzione che gli diamo proprio per quel sacrificio in più che loro hanno dovuto e saputo fare. È bello. Però quello anche... che lei dice di prendere lo zaino e ripartire, cioè, è sicuramente una metafora più bella di tante altre che utilizziamo per gli italiani che appunto cercano fortuna all'estero magari non avendola trovata. Certamente sì, lo zaino poi non è solo quello che porta in sé in termini concreti, ma è quello che porta in sé anche in termini di valori, quindi di legame, di capacità di saper da un lato soffrire, ma di avere sempre, come dicevo prima, degli obiettivi in testa, sapendo che se una persona si comporta nel modo corretto, poi i risultati arrivano. Senta, dal suo punto di vista, l'Italia l'abbiamo fatta e gli italiani a che punto siamo? Beh, non l'avevo l'Italia, molto convinto. L'Italia forse l'abbiamo fatta, ecco, poi dovremo essere più attenti nel fare gli italiani. Noi come associazione lo diciamo, siamo molto preoccupati per i nostri giovani, non tanto perché i giovani non siano disponibili, è perché noi non riusciamo a trasmettere ai giovani quei valori che sono indispensabili, tra i quali prima, mi piace sempre ripeterlo, prima dei diritti vengono i doveri. A scuola l'educazione civica dovrebbe essere uno degli elementi fondanti. I nostri ragazzi dovrebbero capire che devono poter dedicare un periodo agli altri, saper dare gratuitamente, sono messaggi forti che noi abbiamo imparato e che vorremmo che anche i nostri giovani imparassero. Ecco, per fare un'Italia più unita questo passaggio sarebbe fondamentale. Quindi una specie di periodo di servizio per tutti. Sì, esatto, un periodo di servizio per tutti, ma un periodo gratuito, ecco, perché poi qua quando noi parliamo di volontari spesso facciamo confusione. Non è una scelta volontaria di quello che voglio fare, è una scelta volontaria perché do gratuitamente il mio tempo, le mie forze, le mie energie, le mie capacità per gli altri. Io la ringrazio davvero anche per questa osservazione, molto importante. Abbiamo sicuramente, stiamo vivendo anni di grande individualismo sia a livello certo. personale che familiare, di città, anche di stati, no? Lo vediamo, certo, si riflette certo, nelle purtroppo. Politiche internazionali. Certo, purtroppo sì. E quindi un ritorno a questi valori credo sia importante se vogliamo veramente fare gli italiani oltre che aver fatto l'Italia. Grazie Sebastiano Favero, allora buon lavoro, buon proseguimento grazie. E grazie anche per il lavoro che fate, che state grazie. Facendo anche in queste ore, l'Associazione Nazionale Alpini. Qualcuno ci ricorda il compleanno di Radio 24, effettivamente è così, ne facciamo 21 quest'anno e ne parliamo tra pochissimo dopo la viabilità. Si può fare. Intimissimi uomo. Boxer a 7,90€. Nei negozi e online. Vi presenta. Si può fare. Si può fare. Si può fare. È il Garibaldi fissa il mare, tira un sorso di rum che di Marsala qui a L'Avana non ne sbarcano più. Ripensa ai fichi d'India della terra natia, le notti calde giù a Bahia, che malinconia. E attacca banda e se una samba sia suonata da Dio, c'è il Garibaldi innamorato per le strade di Rio. Cappello a larghe falde sotto un poncio marrone e sotto il poncio Anita mia, batte un corazon. Si può fare l'Italia, ci stiamo domandando oggi. Nel frattempo è stata fatta Radio 24, ha compiuto 21 anni proprio nel giorno di San Francesco, e cioè oggi. Abbiamo parlato poco fa con Sebastiano Favero e ci diceva si può fare l'Italia con più altruismo. Sicuramente si può fare l'Italia anche con la conoscenza della storia italiana. Paolo Piacenza è un collega, giornalista, docente al Master Giorgio Bocca dell'Università di Torino. Nel 2011 con Simone Spezia ideò e firmò la trasmissione Il Gazzettino del Risorgimento qui su Radio 24, nella quale ripercorsero la storia della Unità d'Italia come un giornale radio. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno a voi. È stata una bella esperienza, no, quella? È stata una bellissima esperienza, poi come dire, introdotta bene dal Garibaldi innamorato di Sergio Caputo, perché appunto abbiamo giocato con Simone, credo seriamente, in quell'anno per raccontare emozionalmente ma anche rigorosamente quasi un sessantennio di storia, perché siamo partiti da Napoleone e dal... Beh, avete dovuto comprimere. Siamo arrivati all'870, che quindi guarda caso proprio quest'anno, sono i 150 anni quest'anno del 1870. Quindi è stato anche un'esperienza, un esperimento. Ricordo anche una lettera arrivata dal Quirinale, insomma, ebbe il suo successo giustamente perché attualizzava, metteva in termini contemporanei la storia di quel tempo, rendendola anche fruibile, insomma, perché poi alla fine a volte è difficile che uno riprenda in mano il libro di scuola e si metta a leggere queste cose, mentre ascoltarle è tutto un altro discorso. A proposito di ascolto, voi state proponendo, tu e Alberto Pagliarino, che è un attore, con l'associazione Pop Economics, un podcast di giornalismo di inchiesta. Che cosa avete in mente di portare nelle scuole? Noi abbiamo un progetto, no, che viene dall'evoluzione della storia di Pop Economics, che in questi anni ha, come dire, mescolato teatro e giornalismo, giornalismo e teatro, a seconda di che cosa partiva prima sulla crisi economica nel 2011, poi sui temi dell'inquinamento da plastica, dell'obsolescenza programmata, dell'economia circolare nel 2017, con due spettacoli, no? Prima Pop Economics Live Show e poi Blue Revolution. Adesso abbiamo un nuovo spettacolo in campo che si chiama Adamo Etica, ma soprattutto abbiamo questo progetto che si chiama Sound Report. È un progetto che si rivolge alle scuole italiane, che quindi vuole appunto portare guarda alle scuole italiane come luogo in cui cominciare a utilizzare, giocare con il podcast, che è uno strumento potente, come abbiamo scoperto e riscoperto in questi anni, per lavorare in maniera rigorosa, appunto come insegna a fare il metodo giornalistico, sulla storia e sulla cronaca. Il nostro obiettivo è proporre un podcast che non riguarderà la storia italiana, ma riguarderà una storia che ci è spesso affine in termini di comparazione, che è la storia americana. È una vicenda cruciale anche perché è una vicenda che coinvolge una donna che si chiama Aida Minerva Tarbell, o Tarbell, che dir si voglia. Aida Minerva Tarbell, che è stata la prima o una delle prime giornaliste d'inchiesta, definita muckraker da Teddy Roosevelt, il presidente anticonformista dell'inizio del Novecento, e che mise, come dire, a terra la Standard Oil di Rockefeller, forse l'uomo più ricco della storia, no? Quella, noi sentiamo spesso parlare delle sette sorelle. Le sorelle sono sette perché un giorno del 1911 la Corte Suprema americana decise che la Standard Oil non poteva più esistere perché c'era un evidente monopolio, sì, e spezzò quel monopolio dividendo quel monopolio in sette sorelle, no? Per cui questa, senti, è la storia. Perché questa storia avete scelto in particolare? L'abbiamo scelta appunto perché ci sono tanti aspetti per cui l'abbiamo scelta, un po' perché appunto è uno snodo cruciale della storia americana, ma è uno snodo poco noto, assolutamente poco noto, no? Che è il figlio di una, in un momento cruciale in cui l'America prende velocità, diciamo, dal punto di vista della sua crescita, del suo sviluppo, ma fa i conti anche con tutta una serie di storture, e proprio in quegli anni nasce il giornalismo migliore, come lo conosciamo noi. Il 1907 è l'anno di fondazione della scuola di giornalismo, mi pare, il 1907 sia l'anno di fondazione della Columbia. Comunque in quegli anni, come dire, comincia... Si fonda la grande scuola anglosassone, come la intendiamo. La scuola americana, proprio, la scuola americana. Pulitzer è colui che come dire, definisce un po' le regole, ma poi quelli che le regole le fanno sono questi scavafango, no? McCracker significa questo, no? Che però cominciano a lavorare in maniera molto rigorosa, scoprono delle cose, fanno giornalismo d'inchiesta. La grande scoperta di Aida Tarbell è che dietro il successo della Standard Oil c'era probabilmente una corruzione dei capi stazione che venivano pagati per far arrivare prima il petrolio, e quindi man mano quell'azienda aveva conquistato altre aziende, come dire, vincendo sulla distribuzione, molto banalmente, non altro. I lati oscuri diventano, come dire, un modo per scoprire anche un pezzo della propria anima. Però Aida è anche un personaggio complesso, perché però aspetta, Paolo, perché poi il tempo corre, esatto. I ragazzi che seguiranno, no, che faranno parte di questo progetto con la loro scuola, sicuramente vedranno la fine della storia con te e con Alberto, certo, Pagliarino, ricordo, certo. Voi state, certo. Avete una parte di finanziamenti già presenti, un'altra parte si sta raccogliendo, quindi volendo vi si trova, no? E si sostiene. Sì, assolutamente sì, ci si trova su Produzioni dal Basso, che è un portale di crowdfunding su cui stiamo facendo questa raccolta, che è, come dire, è all'interno di un bando di Biperbanca, che ci ha selezionati insieme ad altri quattro progetti di natura sociale, culturale, rivolti in particolare ai più giovani, no? Tra 120, no? E quindi Biperbanca darà il suo importantissimo contributo decisivo. E poi direi, c'è una fetta che arriverà da Produzioni. C'è una fetta, esatto, ci mancano pochi giorni, e se qualcuno ha voglia di darci una mano per raggiungere, come dire, quel traguardo che ci consente di raggiungere il risultato finale, siamo molto contenti. E quindi scendere in campo, come si dice. Senti, sì. L'Italia secondo te è fatta oppure no? Così lo chiedo un po' a tutti i nostri ospiti oggi. Ma forse sì e contemporaneamente no, perché poi in realtà senza farlo opinionista, ma insomma io credo che l'Italia si faccia anche tutti i giorni, no? con le cose che scegliamo di fare, e quindi è fatta, ma si può anche disfare. Questo è il rischio che forse vediamo un po' tutti i giorni, e che quindi ci deve indurre, come si diceva anche prima, a lavorare sempre di più su l'impegno per la comunità, per l'insieme, per la collettività. E quindi mi sembra è il secondo appello che riceviamo in questo senso. Siamo un po' troppo disuniti, diciamo, per fare un'Italia solida. Grazie Paolo Piacenza. Allora in bocca al lupo, buon proseguimento con il progetto Sound Report. Grazie a voi, grazie a voi. Noi ci fermiamo perché adesso c'è GR24, Si può fare l'Italia. Proseguiamo subito dopo e come sempre ogni domenica ci raggiungerà anche Marco Malvaldi. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare. Si può fare. L'Italia, questo è il tema della nostra puntata. Si può fare l'Italia con più solidarietà, ci diceva il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, con più conoscenza, forse con una certa dose di servizio civile o militare, sicuramente nella sua testa. Buona formazione scolastica, ci sottolinea qualcun altro via SMS 349-238-6666, se ci volete dare la vostra ricetta 800-24-00-24. Nel frattempo saluto Marco Malvaldi in collegamento con noi come ogni domenica ormai. Buongiorno Marco. Buongiorno Laura, salve a tutti. Allora, secondo te si può fare l'Italia? Che dici? Ne parliamo adesso nei prossimi minuti, ma si può fare l'Italia sicuramente con un po' di movimento. È un classico italiano, navigare, camminare. Assolutamente, si può fare l'Italia in tantissimi modi. Si può fare l'Italia anche partendo dai mezzi italiani. C'è stato un giovane, molto tempo fa, circa 200 anni fa, che era considerato dal padre un buono a nulla, e quindi il padre dalla natia Torino lo mandò nelle Langhe per coltivare le vigne e quindi imparare un pochino a stare al mondo. Quel giovane si chiamava Camillo Benso di Cavour. Credo che sia una cosa abbastanza interessante sapere che Sì, perché lui era un cadetto e quindi terra, come cadetto si doveva dare anche un po' da fare, non è che poteva pensare di ereditare tout court. Esattamente, quindi a quel punto Cavour eredita questo pezzo di terra, coltiva la vigna, risolve dei problemi perché in quel periodo arriva la filossera, arrivano tutti i mali della vite che lo costringono a studiare, a chiedere ai francesi rimedi, a mettere su un nuovo modo di fare vino. E quel modo di risolvere i problemi poi piano piano lo porterà, diciamo, ai livelli che sappiamo, perché poi questo signore è diventato uno di quelli che l'Italia l'ha fatta per davvero. Quindi anche dal movimento, dalla terra, proprio dalla terra italiana nasce un nuovo modo di fare l'Italia attraverso quella che è una delle cose più fondamentali, ciò che si mangia e ciò che si beve. A proposito, terra per terra, ti voglio portare in Puglia, dove c'è una startup che produce spirulina. Beh, adesso insomma ci dice un po' tutto Daniela spirulina. Chiapperini, cofondatrice di Apulia Kundi, buongiorno. Buongiorno a voi. La sua esperienza, se non ricordo male, nasce appunto da un'esperienza all'estero, la vostra esperienza in generale, no? Mi pare di ricordare da frati missionari forse, e poi siete arrivati a questa azienda, questa startup che è stata impiantata a casa vostra, quindi in Puglia. Sì, esattamente. La nostra esperienza, l'idea imprenditoriale nasce da molto lontano, perché io, Daniela è il mio cofondatore, Raffaele Settanni, ci siamo occupati per tantissimi anni di cooperazione allo sviluppo e quindi abbiamo girato un po' l'Africa per realizzare questi progetti, per studiare, per monitorare, e girando nelle diverse missioni abbiamo un giorno conosciuto la spirulina che coltivavano proprio per darla ai bambini denutriti di un centro nutrizionale e ai malati di AIDS, sempre lì vicino in un altro centro, proprio per rafforzare il loro sistema immunitario. E quando abbiamo visto i primi effetti sui bambini denutriti, su questi malati, ci siamo davvero stupiti, perché poi ci hanno raccontato di quanto fosse portentosa questa microalga spirulina. E lì abbiamo studiato, e quando siamo tornati in Puglia abbiamo partecipato ad un bando della Regione Puglia, Principi Attivi, che diceva giovani idee per una Puglia migliore, quindi abbiamo detto perché non provare ad innovare? Perché no, certo, portare, esatto, anche questa, che poi è diventata un'attività anche rivolta al nostro paese, cioè non si pensa più esclusivamente alle missioni. No, assolutamente, infatti noi dopo questo progetto pilota abbiamo fatto studiato, abbiamo fatto ricerca e poi con la Camera di Commercio abbiamo vinto un altro bando alcuni anni successivi, esattamente nel 2015, che ci ha permesso poi di trasformare l'impianto pilota in una startup vera e propria di produzione, che è quello che stiamo adesso, una startup di produzione e ricerca nell'ambito delle microalghe, perché le microalghe rappresentano il futuro, perché hanno un basso impatto ambientale, in particolare la spirulina ha un valore nutrizionale molto molto interessante, proprio perché ha un profilo nutrizionale completo. Daniela, un attimo che Marco voleva fare una domanda. Certo. Una cosa, perché noi stiamo parlando di spirulina a livello nutrizionale esclusivamente, sì, però la La spirulina, che è un cianobatterio, ha un difetto che può trasformarsi facilmente in pregio, cioè se non sbaglio, assorbe con enorme facilità, come molti cianobatteri, metalli pesanti. Quindi questo può essere, diciamo, un difetto da un punto di vista alimentare, ma un pregio se introdotta in territori che invece hanno il problema dei metalli pesanti. Sì, assolutamente. Anche nel nostro corpo ha un'azione chelante, quindi ci disintossica, soprattutto fegato e reni, ci disintossica dai metalli pesanti che, come sappiamo, ormai respiriamo, mangiamo e beviamo con facilità. Un'altra caratteristica della spirulina è quella che fissa la CO2 in grandi quantità, e si stima ad esempio che per ogni chilo di spirulina secca prodotta vengano fissati dall'atmosfera 2 chili di CO2, quindi questo è qualcosa, come dicevo ieri, di emozionante, cioè è un alimento che fissa così tanta CO2, che contribuisce al benessere del nostro pianeta, è qualcosa di oggi, insomma, in questo momento storico in cui l'ambiente è all'attenzione di tutti quanti, è qualcosa di davvero straordinario, e quindi possiamo scegliere di contribuire anche al benessere ambientale oltre che al nostro benessere scegliendo, diciamo, un prodotto come la spirulina. Allora, io Daniela Chiaperini la ringrazio, vi auguro così in bocca al lupo per la vostra startup, il proseguimento delle vostre attività. Direi che possiamo chiudere dicendoci: si può fare in Italia in questo caso, non so se è d'accordo Daniela e Marco. Si può fare anche al sud, esattamente, sì, si può esplorare il mondo e portare a casa quello che si impara dal mondo. Allora, GR l'abbiamo appena sentito, abbiamo la viabilità tra pochissimo e poi il profilo di Dante. Si può fare. Intimissimi uomo, boxer a 7,90 euro, nei negozi e online. Vi presento. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Viva l'Italia. L'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura, viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Ed eccoci ancora insieme dopo questo Viva l'Italia di Francesco De Gregori. Chi più italiano di Dante? Non so, Marco, cosa ne pensi tu? Insomma, io sono di parte da doppiamente, perché sono italiano e sono toscano, quindi se mi si chiede qual è la prima cosa italiana che mi viene in mente, uno straniero direbbe la Ferrari, io dico Dante. Dante Alighieri, che è stato, diciamo così, quello che ha in qualche modo eletto il volgare fiorentino a lingua italiana, e uno dei rari casi in cui la cultura prende una direzione volontaria e poi questa cosa si verifica, perché noi oggi parliamo quello che un tempo era il volgare toscano. Già nei manuali di canto del Settecento si raccomandava ai cantanti di parlare e di cantare in toscano, non in italiano, quindi è un qualcosa che aspetta che adesso ti metto perché insomma ci vuole un contraltare adeguato, ecco. Professor Giulio Ferroni, buongiorno. Professore emerito alla Sapienza di Roma, storico della letteratura, critico letterario, intanto insomma mettiamo Dante da simbolo dell'italianità. Ah beh, certo, questo non solo della toscanità naturalmente, ma io non sono toscano, sono romano, anche se sono molto legato alla Toscana. In realtà la forza di Dante è stata quella non solo di eleggere, come giustamente diceva Malvaldi, il volgare toscano a modello che diventerà poi nazionale, ma è stata anche quella di mettere dentro il volgare toscano una quantità di altri termini, di altre prospettive linguistiche, sia coniando lui stesso delle parole, sia prendendole da altre regioni. Del resto lui conosceva bene i vari cosiddetti dialetti d'Italia ed aveva parlato in un'opera incredibile che può essere considerata il primo trattato linguistico della storia, il De Vulgari Eloquentia. Degli altri però parlava maluccio, a dire il vero. Sì, certo, di palmo, certo, di mano teneva il suo fiorentino. No, certo, poi parlava su certi dialetti in particolare, e dice che sono orribili, che, cioè, però poi insomma nella commedia ci sono cose che non coincidono immediatamente col fiorentino, insomma c'è una creatività linguistica assoluta, insomma, no? Ecco, per cui forse anche per questo Dante è diventato poi, a partire dal 700, beh, poi per un certo periodo è stato tenuto un po' in ombra, insomma, no? Però soprattutto è stato sopravanzato da Petrarca, dal volgare toscano depurato e senza nessun confronto con altri linguaggi di Petrarca, ma invece Dante aveva messo in moto altre cose, insomma, e nel 700 si è cominciata a riscoprire la sua grandezza, che poi paradossalmente dalla dimensione italiana si è prolungata in una dimensione internazionale. Non dimentichiamoci che Dante è sì un emblema dell'Italia da tanti punti di vista, ma anche un emblema dell'Italia dal punto di vista del mondo, insomma, no? È un autore mondiale, insomma, questa è la sua grandezza, la specificità, insomma, no? Che è stata scoperta man mano soprattutto a partire dal 700, perché poi stranamente dopo il grande successo dei primi secoli del 300, ancora del 400, Dante, a parte la Toscana dove il culto di Dante è rimasto sempre, ma per il resto è stato molto dimenticato sia in Italia che poi fuori d'Italia, insomma nessuno lo leggeva così, e dopo però ecco ha scoperto in fondo, si è scoperto un suo carattere moderno, una sua modernità singolare, paradossale, che è legata proprio anche al suo essere distante, lontano nel tempo, ma con questa lontananza c'è una forza di attualità, insomma, no? Nel professore modo... aspetti un attimo che sento che Marco professore... stava caricando una domanda, cioè, per lei. Sì, beh. Ecco, perché lei giustamente ha detto che Dante ha assorbito tantissimo, perché è vero, Dante parla male degli altri dialetti, in particolare il romano non lo tratta benissimo nel De Vulgari Eloquentia, però alla fine la sua forza è proprio quella di assorbire, di capire, di filtrare, un po' come fa un altro grande italiano, che di quelli che l'Italia l'ha unificata, Pellegrino Artusi, che diciamo... conclude il suo trattato proprio con un motto dantesco: messo to innanzi, o mai per te ti ciba, è una citazione dal Paradiso, cioè Dante diventa una specie di testimone per, diciamo, per giustificare, per mettere in relazione qualsiasi tipo di cultura, quella alta e quella bassa, con quella che è secondo me la vera ricchezza italiana, cioè il forte regionalismo, il fatto che siamo 20 regioni differenti. Certo, cioè, del resto lui si confronta con gran parte, diciamo, di questi luoghi, no? Anche se non li ha tutti frequentati, però tra l'altro io ho fatto un libro sul viaggio in Italia nei luoghi danteschi, dove tocco tutta la penisola, insomma, lui ha interrogato i momenti dei personaggi, poi perché poi ecco lui nel presentare, nell'attraversare l'Italia da tutti i punti di vista, fa da corpo in maniera quasi fisica a tanti personaggi. Ecco, penso sempre più che la sua modernità, quella modernità che è stata recepita a partire dal 700 e poi nell'800, vabbè, in Italia soprattutto in chiave risorgimentale, nazionalistica, eccetera, magari esagerandone la prospettiva in questo senso, però la sua grande modernità mondiale è stata in una sorta di invenzione del personaggio moderno. Basta a lui far parlare a un personaggio per 5-6 versi e già questo si staglia tutto tondo, entra nell'immaginario. Io penso sempre a Pia dei Tolomei, che c'ha soltanto 6 versi nel Purgatori, Rio, no? E poi però che si impone con la sua ricchezza di prospettive, con le tematiche e le immaginazioni che porta con sé, perché poi sono state costruite tante storie, tante vicende che non sono reali, ma insomma sono state inventate, però che hanno preso spunto da questo soli sei versi di Dante. Insomma. La Senta, però le volevo... del personaggio, prego, è importante. Certo, certo, e là, quella è la penna, quando uno ce l'ha, insomma, qualunque sia la lingua che, certo, nella quale certo si esprime, no? Certo, 700 certo anni dalla morte di Dante, e invece portandola un po' sui giorni nostri, visto che noi parliamo del si può fare l'Italia oggi, la lingua italiana l'abbiamo fatta a suo avviso nel, no, in questo, da, diciamo, negli, dall'unità sì d'Italia? Beh, insomma, con tanti conflitti, con tante prospettive diverse, ma già negli anni 60 si stava configurando, ormai è fatta, magari nel bene e nel male, abbiamo perso pure qualcosa rispetto alla ricchezza, all'originalità di tanti dialetti, insomma anche di com'era il toscano prima, no? Però ecco, con l'avvento dei media moderni, prima di tutto la televisione, insomma, è chiaro che ormai non si può dire più che gli italiani non si comprendono tra loro, magari non si comprendono, ahimè, per altre ragioni, per ragioni sociali, economiche, di rabbia, di odio, però ecco, la lingua ormai, la lingua italiana c'è, quella lingua che già nell'Ottocento Manzoni cercava di impostare in un certo modo, ma non c'è riuscito. Insomma, no? Ecco, ci sono stati dibattiti infiniti, però già negli anni 60 Pasolini con la sua intelligenza prefigurava, anche se amaramente, che per lui insomma questa unificazione dell'italiano era anche una perdita, perché venivano perduti tanti valori, tante forze espressive, cioè è un italiano un po' semplificato che però è minacciato d'altra parte, no? Minacciato soprattutto, ecco, dal dominio dell'inglese, devo dire. Prego. Ecco, professore, una cosa, visto che lei dice minacciato, c'è una domanda, perché Dante, proprio nel De Vulgari Eloquentia, libro ha ragione a citarlo straordinario, dice che la lingua cambia, che le lingue in modo naturale cambiano, Dante considerava certo il greco e il latino artificiali. Ecco, le faccio una domanda, un piccolo gioco, secondo lei Dante cosa penserebbe di usi come usare l'asterisco al posto della specifica di genere? Ah, beh, credo, no, quello non gli piacerebbe proprio, devo dire, perché la corposità della parola è data proprio dalla sua sostanza fonica linguistica, no? E l'asterisco poi lo possiamo mettere quando scriviamo, ma poi quando cerchiamo di dire cosa diciamo, insomma, no? C'è la congruenza perfetta sempre tra lo scritto e l'orale, è qualche cosa a cui Dante tiene, e tra l'altro l'italiano c'ha un vantaggio rispetto a tante altre lingue, no? Che è quasi uguale la pronuncia fonica dalla scrittura, no? Sono pochissimi i casi in cui insomma non corrisponde, insomma, no? Mentre tutte le lingue, l'inglese prima di tutto, ma poi il francese, ma tutte le lingue europee, almeno quelle che conosco io, insomma, hanno sempre, no, delle sfasature tra la resa grafica e la vocalità. L'italiano c'ha questo vantaggio, e figura che era tale fin dai tempi di Dante, no? E non possiamo certo sostituire da segni grafici, no? Come lo diciamo, un plurale che per evitare maschile e femminile ci mette l'asterisco, quando lo diciamo a voce non riusciamo a dirlo, che diciamo asterisco. Sì, mi pare, io sono, insomma, nonostante riconosca il valore di una lingua, possiamo far cadere la voce, non sta bene, sì. Possiamo dire ragazzi, biascicare il finale non è proprio il massimo della... sì, appunto, no, bisogna trovare altri modi per superare il maschilismo residuo del linguaggio, ma non si può fare certo così, insomma, no? La lingua va rispettata nella sua sostanza fonica prima di tutto, no? È una cosa che nasce nell'oralità, poi la grafica è venuta dopo, però ecco, nella nostra lingua ci abbiamo pure questo vantaggio, che quando dico cane è scritto uguale, i fonemi corrispondono alla grafica, mentre chien francese c'è una piccola differenza tra la fonica e la grafica. Questo ci fa capire che siamo sempre più abituati a comunicare per scritto in maniera veloce, sempre meno in maniera orale. Certo, è una cosa a cui certo. Non avevo pensato, la ringrazio, è bellissima. Grazie a voi, mi ha commosso. Professore, molto... stia un attimo, dai, vogliamo Prego. Farle una domanda. Dobbiamo per forza mandare il meteo, ma vogliamo chiederle una cosa subito dopo, poi la lasciamo in pace. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Hey, questa mattina giù al parco, sai, si parlava di quando ci si allenava nel fango e il mondo lo si scopriva giocando. Ricordi il tipo che parlava poco, lui già vedeva il suo scopo. Dentro lo sguardo bruciava quel fuoco. Amava il gioco, amava il suo pallone. Viveva per diventare il migliore. Lo si chiamava il campione. Sembrava un uomo con le sue scarpette addosso. Guardava avanti fisso e diceva a se stesso: ci sei solo tu con quella porta davanti. Un tiro da segnare che aspetta per svelarti se. Tutti quei sogni per cui tu corri. Li meriti davvero, sono solo illusioni folli. Solo tu e quella porta più là. Sotto i fischi di tutti quando quel tiro non. Beh, direi che la canzone svela già tutto. Il tema del quale parliamo tra pochissimo è il si può fare l'Italia dello sport, e ovviamente ci sono dei momenti topici nella nostra storia nella quale l'Italia si è fatta in maniera speciale e specifica. In collegamento con noi in questo momento c'è Dino Zoff. Buongiorno, è un piacere sentirla, capitano dell'Italia, campione del mondo nell'82, ma tantissimi sono i successi ovviamente della sua carriera. Buongiorno. Buongiorno. Siamo felici di averla trovata. Ci ha fatto un po' sudare sette camicie, avevamo paura di non riuscire a fare questo collegamento, ce l'abbiamo fatto. Io ho chiesto al professor Ferroni di restare qualche minuto in più perché volevo sapere da una persona, no, così addentro alla letteratura italiana, alla storia della lingua italiana, insomma, se ha poi anche una fede calcistica o una, no, da condividere con noi in questo momento, professore. Sì. Sì, ce l'ho e tra l'altro mi commuove la presenza della persona che avete chiamato, di grande Dino Zoff, che non è solo un grande dell'Italia in genere del calcio, ma è stato uno legato molto alla squadra che io seguo, cioè la Lazio. quindi mi fa particolarmente piacere. Poi insomma ricordo tante cose, insomma, no, è veramente una di quelle presenze mitiche, insomma, e poi già tutto parte perfino dal no, tra l'altro capitano queste cose, che certi campioni hanno dei nomi un po' particolari che restano proprio. Chi è che si chiama Zoff? Non esiste nessuno, insomma, no? Quindi è ancora la sua solitudine mitica, direi, resta ancora più forte. Ha sentito Dino Zoff, anche il nome è mitico, tutto è mitico in lei. Grazie delle belle parole, ma d'altra parte il portiere è solo, è l'unico che gioca con le mani anche. Marco, so che anche tu aspettavi questo momento, finalmente l'incontro telefonico con Dino Zoff, uno scrittore e il portiere. Assolutamente, anche perché Dino Zoff nella mia testa è legato a un gesto bellissimo, perché completamente sincero. Alla fine di una partita di Italia-Brasile del 1982, Zoff leva dalla porta un pallone che sembrava già entrato, e mentre i brasiliani esultano, Zoff si rivolge all'arbitro e gli fa no col dito. Ecco, e il fatto è che solo Dino Zoff può avere quell'autorità lì. Se Dino Zoff fa di no, vuol dire che la palla non è entrata. Lei godeva di una credibilità, mi consenta di dire, rispetto a quello che si vede oggi sui campi di calcio, assoluta. Spero di averla ancora, insomma, la preoccupazione in quegli attimi è stata grandissima, perché appunto avevo la paura che l'arbitro non vedesse bene, quindi ho passato diversi secondi veramente terribili, perché poi ti viene in mente tutto, un'altra occasione in nazionale che l'arbitro vide male e mi diede il gol e non c'era, e quindi insomma è passato, poi è finito in gloria in tutto e per tutto. Però lei ha un po' l'idea, la consapevolezza di avere in quel momento unito l'Italia, o lì non ci se ne rende conto? Beh, no, non ce ne si rende conto, no, anche se noi eravamo in silenzio stampa, eccetera, tutte queste cose, però insomma lo sport ti porta fuori, almeno quando giochi, di tutti gli altri problemi, perché la pressione è tale che sei portato, anche se delle volte il portiere, avendo dei tempi morti, qualche ripensamento sulle cose ce l'ha, ma in genere lo fa sulla partita, ecco, su quello che ha fatto o che dovrà fare. Quindi direi che questa consapevolezza è venuta dopo. Ecco, Zoff, una cosa, un tempo, diciamo, i calciatori si sono sempre divertiti. Io mi ricordo una storia che Brera diceva di Peppino Meazza, che si era svegliato una mattina in un letto non suo, accanto a due ragazze che invece erano di molti, e si era dimenticato che c'era la partita, arrivò per il secondo tempo. Però che lei vede differenza fra il modo di approcciare il calcio e i calciatori da quando lei giocava a ora? C'è un po' la percezione che i giocatori giochino a calcio non perché gli piace il calcio, ma per diventare famosi, o è una nostra percezione sbagliata? No, non è del tutto giusta, però una parte senza dubbio, ecco, perché insomma adesso mediaticamente è importante tutto, vediamo che si usa la parte mediatica in tutte le professioni, in tutte le cose, la televisione conta moltissimo, fa opinione, fa qualità, se vogliamo, anche, quindi quello che chi non entra in questo giro, pur essendo magari valido, non ha certamente quello che hanno tanti altri. Questo è un'esasperazione mediatica che è tuttora, vediamo dalla VAR, da tutto, insomma, il comportamento dei giovani è diverso, non è che noi eravamo migliori, è che c'era molta passione, probabilmente c'è anche adesso, però è una componente in più mediaticamente, insomma, quindi direi che quindi anche le espressioni in campo, tutte queste cose sono, non dico molte volte ricercate, però fanno parte del vivere odierno, quindi io non sono così negativo su chi fa calcio adesso, che il mondo è questo. Il mondo è questo. Io saluto e ringrazio il professor Giulio Ferroni, che adesso deve partire, quindi appunto buon proseguimento, buona giornata, grazie per essere stato con noi e averci parlato tanto di Dante, e abbiamo parlato tanto anche di Italia e di italiani. Professore, grazie. Grazie. Alla prossima. Allora, Dino Zoff, c'è un ascoltatore che dice che la sua autorevolezza, che lei, il suo cognome in tedesco significa rissa, ma in questo caso non vale, no? Perché lei non è uno che fa rissa, ma è appunto autorevole. Insomma, le sono state attribuite molte qualità quasi da leader del paese, più che di una nazionale di calcio. È buffa questa cosa, che veramente i calciatori italiani hanno addosso una responsabilità grandissima per come si muovono, e tra l'altro, riallacciandomi a quello che diceva lei, al contrario, no, se si muovono male fanno una scuola contraria. No, di tutte queste belle parole, insomma, mi fa particolarmente piacere, anche perché ci ho tenuto, perché ho sempre considerato il calcio, in genere lo sport, molto è importante per la crescita degli uomini, e quindi sotto questo aspetto ho cercato sempre e mi sono sentito di dover dare degli esempi, e quindi il mio modo di essere, di pensare, è appunto è stato fatto sempre sui canoni dello sport, quindi perché ritengo una ragione di vita fatta fatta in dovuti modi, ecco, e quindi che poi sia diventato credibile mi fa particolarmente piacere, ma come vede anche la credibilità poi dopo si ferma, insomma, non è che sono diventato Presidente della Repubblica, certo per la maggioranza. Ma c'è stato un momento in cui sicuramente l'avrebbero fatta Presidente della Repubblica. Poi con quella partita famosa, quella gran foto, insomma, che tutti ricordiamo, no? E Pertini che sbaglia, Scopone, facevano Zoff, Presidente. Ma ti immagini a fare una cosa adesso, tutti gli entourage del Presidente nostro avrebbero lavorato per dei giorni per fare una cosa così che è venuta fuori istintivamente. Certo, grande merito e assoluto merito del Presidente, insomma, però per dire come venivano fuori anche certe cose una volta, purtroppo parlare di una volta si entra in un brutto, si facevano diversamente, ecco Marco, prego. Però è appunto, però il 1982 parliamo di un'epoca in cui io mi ricordo che quella partita qui in generale, poi quel mondiale è stato, diciamo, un mondiale vinto che ha in qualche modo unito gli italiani in maniera veramente notevole. Io non mi aspettavo, e ancora oggi a rivederlo mi stupisco di un Presidente della Repubblica non tanto che gioca a carte con i giocatori, ma che in tribuna d'onore esulta chiaramente a ogni gol. Ecco, è stata un'immagine al di fuori da ogni canone istituzionale e sfido chiunque a non riconoscersi in quel momento. Ecco, lei ha avuto modo di vedere di Pertini che esultava in quel momento, era troppo impegnato a esultare lei? No, io ero sul campo, quindi la tribuna purtroppo non l'ho visto, l'ho visto naturalmente dopo tantissime volte nelle cose televisive eccetera, però insomma uno in campo pensa alla partita, poi insomma il mondiale, poi per me in modo particolare, adesso mi sento abbastanza narciso, il mondiale, capitano, 40 anni, insomma il tetto delle aspirazioni, che naturalmente sai già che finiscono, ecco, perché insomma non è che puoi andare tanto più là. E perciò questa sensazione poi certamente è arrivata dopo, quando siamo arrivati a Roma, eccetera, con l'aereo del Presidente, tutte queste considerazioni, anche perché venivamo fuori da una battaglia che potevamo perdere, ma non dico sul campo, anche fuori, col silenzio stampa, insomma, non era, quindi la soddisfazione di aver portato a termine una vittoria così importante, insomma. E di aver interrotto anche un digiuno lungo 60 anni, no? Quindi c'era anche quello. 60 anni, insomma, io sono anche campione d'Europa, quindi direi che sono l'unico in Italia di calciatore, però insomma certo, il mondiale. Dino Zoff, grazie, davvero. L'Italia sportiva l'avete fatta senz'altro, in quel momento, anche in altri momenti. Buon proseguimento, buon tutto. Noi abbiamo adesso la viabilità. Marco, ci ritroviamo tra pochissimo. Si può fare. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta Si può fare. Si può fare. Si può fare. You can play the game and you can act out the part, though you know it wasn't written for you. But tell me, how can you stand there with your broken heart, ashamed of playing a fool? But one thing can lead to another, it doesn't take any sacrifice. Oh, father and mother, sister and brother, if it feels nice, don't think twice. Just shower the people you love with love. Io mi sono trattenuta dal ricordare l'ingeneroso commento di Churchill sugli italiani che perdono le partite di calcio come fossero guerre e viceversa. Eh beh, ma ci sarebbero cose da dire sul calcio, perché ognuno ha la sua massima. Gary Lineker definiva il calcio come quel gioco in cui si gioca 11 contro 11, vince chi fa più gol e la Germania va in finale. D'altronde, ecco, l'Italia è un po' c'ha questa cosa, ce l'ha. Se facciamo, quando facciamo le cose bene, veniamo subito accusati di non aver giocato a quel gioco secondo tutte le regole che ci si non scritte, che ci si aspetterebbe di rispettare. D'altronde è così. Dobbiamo abituarci, certo. Un'altra questione che unisce l'Italia è sempre l'enogastronomia, questo è noto. Ci siamo domandati a lungo su quale fianco colpire, da dove aggredire questa questione. Alla fine io ho risolto salomonicamente andando alla base. Cioè, c'è chi ha la pasta, c'è chi ha il riso, chi ha la polenta, e ho detto prendiamo un molino. Serve tutta Italia, e abbiamo scelto di parlare con il Molino Dalla Giovanna, sicuramente di lunga tradizione, qui siamo in provincia di Piacenza. Sabrina Dalla Giovanna è attualmente la responsabile marketing del Molino Dalla Giovanna, buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. E la vostra storia parte dal 1832, se non vado errata, quindi davvero. Corretto. Una lunga storia. Ha avuto prima dell'Italia, partita prima dell'Unità d'Italia, bravo Marco, hai osservato correttamente la data, e ha preso un grande rilancio poi negli ultimi anni la vostra attività, anche perché siamo diventati tutti appassionati di produzioni domestiche, e quindi si è diversificata poi, no, l'attività. Com'è andata? Sì, allora la nostra azienda, come diceva, è dal 1832, è un'azienda familiare. Oggi ci sono la quinta e la sesta generazione che oggi rappresento insieme a mio cugino Paolo, e sì, diversifichiamo tantissimo. Le farine speciali, dalla pasta fresca, alla pizza, alla pasticceria, al pane ovviamente, distribuite in Italia ma anche all'estero, perché oggi siamo presenti in oltre 50 paesi nel mondo, dove ci riconoscono l'italianità e la qualità della nostra farina, data anche dal fatto che per fare un'ottima pizza ci vogliono gli ingredienti italiani. Quindi sicuramente fa gioco l'italianità anche su questo. Ecco, ma questa cosa qui della qualità, che è una cosa che all'estero ci riconoscono assolutamente, sì, è un qualcosa che viene riconosciuto anche in Italia? Perché io mi chiedo, per esempio, voi avete tantissimi tipi di farine, e perché ogni alimento richiede una farina specifica. Ecco, c'è una regionalità in questa scelta? Ci sono regioni nelle quali vanno più le farine di forza, per esempio, per fare i prodotti lievitati, e altre in cui vanno più le farine per la pasta o viceversa? Allora, dipende su cosa vogliamo stare. Sulla pasta fresca, al nord, da tradizione viene utilizzato il grano Zenero, quindi Piacenza, in Emilia-Romagna, cuore del tortellino, dei ravioli, quindi principalmente viene utilizzato il grano Zenero, quindi farina di grano Zenero. Se andiamo al sud, in Puglia, viene utilizzato più il grano duro per fare la pasta fresca. Quindi c'è questa tradizione regionale. Se andiamo sui prodotti lievitati, oggi il panettone che spopola in tutta Italia, da nord a sud, è indifferente. Ci sono ottimi panettoni al nord come al sud, quindi quello non cambia. Abbiamo sicuramente dei grani nazionali eccellenti in Emilia-Romagna, tutto quello che è la pianura padana, e noi da lì abbiamo fatto una filiera con gli agricoltori per fare una linea di farine di soli grani italiani, che sono le nostre divine, che abbiamo ovviamente ispirato al cinema, all'universo femminile ovviamente italiano, e si chiamano Sofia, Monica e Anna, quindi ispirate a grandi attrici italiane. Dunque, certo che tenere dietro a tutte queste richieste non deve essere fatto, stavo pensando. Io ero rimasta molto colpita perché, per l'appunto, io credo di aver incontrato suo cugino in una di queste fiere all'estero, e mi piaceva l'entusiasmo con il quale appunto eravate presenti in quella fiera lontanissima dall'Italia, portando prodotti con un entusiasmo veramente di giovani della nuova generazione, che tutt'altro che stanchi del lavoro dei nonni. Anche questo è bello. No, assolutamente sì, abbiamo una passione che devo dire grazie ai nostri padri che ci hanno tramandato, ovviamente, e siamo orgogliosi, insomma, di portare avanti la nostra azienda, che poi porta anche il nostro cognome, quindi siamo orgogliosissimi di portarla in giro in tutto il mondo. E come diceva lei, ci facciamo fiere in tutto il mondo, perché andiamo dall'Australia agli Stati Uniti, andiamo, insomma, in Cina, Giappone, ovunque, a portare altro, insomma, il made in Italy. Ecco, una cosa, perché voi probabilmente avete molto più di altri la consapevolezza di com'è cambiato questo tipo di lavoro, cioè, e voi non vendete, diciamo, cose non deperibili, no? Quindi mi immagino che la conservazione, il marketing, la stima delle vendite siano aspetti cruciali. E voi, insomma, sono quasi 200 anni che siete sul mercato. Com'è cambiato il modo di produrre alimenti e generi alimentari in questi anni, in questi decenni? Allora, sicuramente ci vuole un sistema qualità, una sicurezza alimentare che deve essere dettata appunto da certificazioni che poi noi abbiamo in azienda. Noi abbiamo mantenuto quella che è la tradizione dell'attività molitoria, perché abbiamo ancora il lavaggio del cereale in acqua prima della molitura. Quindi questo era d'obbligo fino agli anni 70, noi l'abbiamo mantenuta per avere un prodotto igienicamente più pulito, ma allo stesso tempo per preparare al meglio il cereale a ricevere la giusta umidità quando va in macinazione. Quindi sicuramente, scusate se rompo, ma il tempo scorre, sicuramente è anche una questione di tradizione, di mantenere le tradizioni e le radici nel nostro passato. Tradizione sicuramente, ma un'innovazione tecnologica totale. Totale, ok, ottenere il risultato grazie all'innovazione. Grazie davvero a Sabrina Dalla Giovanna, il Molino Dalla Giovanna. Grazie anche a te, Marco, per questo collegamento. Marco Malvaldi, ci ritroviamo domenica prossima. Assolutamente, io ormai ci ho preso il vizio, anzi quasi quasi vengo a trovarvi direttamente a Milano. Quando vuoi, ci fai molto piacere. In redazione Edoardo Lavezzari, Michele Michelazzo, l'autore Peter Bescapè, oggi in regia c'era Valentina Ternullo, in assistenza da Laura Bettini. Un buon ascolto, ci ritroviamo sabato. Ora è ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo. Perché è facile? Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it.